Cena se stingo. Eu la mani, Sam's fazo. Mami trove come flozzi, li mommi de flozzi. La lingua stringa. Marcia London Arnaid. Perché non si stingo a lingua stringa. Qua resta, qua si lancia l'ego. Arnaid. Perché non si stingo a lingua stringa. Perché non si stingo a London Arnaid. Perché non si stingo a lingua stringa. Qua resta, qua si lancia l'ego. Arnaid. Perché non si stingo a lingua stringa. Perché non si stingo a London Arnaid. Primitivo Zol, Mike, poi lo mastico. La foto di sta roba già da 9-6 giurassico. Drastico risvolto, svolto con il rap al massimo. Demon on the road, non lascio che mi sorpassi. Leo, fermati, ascolta, scarica e supporta. Ho il flow con la spornia, noi razza balorda. Un'orda di gente stressata, un'oncia disatra e una lacrima versata. Benedico cielo, perco sempre un pasto caldo. Rollo come giallo, svolo, metto turbo quando parto. Spinoso come un cardo, uomo di fango fuori come Baldo. Fallo, clicchi, ve spendo l'anima in salto. E poi vedremo, l'otto per mille me lo gremo. Con Pippo Sfaso, Fabio e Fedo, vi prego. Datemi una flebo di primero buco nero che assorbe il tuo pensiero. Fiero. Perché non si estingua lingua stringa. Qua resta, qua si lancia l'ego. Perché non si estingua lingua stringa. Perché non si estingua lingua stringa. Perché non si estingua lingua stringa. Qua resta, qua si lancia l'ego. Perché non si estingua lingua stringa. Perché non si estingua lingua stringa. Lascia calcars, ci ci con gre, le fix și femei și ni foarte pe lekin și sta, le fix și femei și ni foarte pe lekin și dre, e ce șefa o plat plat ci ma cras nesla, mai mi dica ta sat că le ulecem și hla, ajo medicate, aki ai toro centa, adi le flop gran o bin story chestra, le ule medicate ce ni story ma ke stretch, il antena rap le khalla le qarda de strash, ce ce hak le flow shit, ce le flow sma, il antena story chef ce del rap, yeah, yeah, yeah, medicate. Yo, Tioff البارش 2029 L'album جاي وليزي تكتشار. Yo. Perché non si estingua lingua stringa. Qua resta, qua si lancia l'ego. Perché non si estingua lingua stringa. Perché non si estingua London Arnaid. Perché non si estingua lingua stringa. Qua resta, qua si lancia l'ego. Perché non si estingua lingua stringa. Perché non si estingua London Arnaid. Allarme rosso, avvicinarsi mani gol di urla pura più non posso. Grosso, guai Imperial Town. Non c'è polvere sottile, siamo invasi dalla Brown. Countdown per la gabbia, se collaboratore ti sta addosso come scabbia. Scambia veloce, telecamera feroce. Braccialetti intorno al polso scottano più della brace. Pulce nell'orecchio, un uccellino m'ha detto che porco Dio fa pietro. Il più figlio di puttana ma lo faccio per dispetto. Rispetto a una persona normale. Non ti guardo negli occhi ed ho poca morale. Chi è bugiardo è anche ladro, te lo posso confermare. Confermati sta funcia, all'ospedale denuncia. Mia madre ci rinuncia. Bip e paccioccoso gli solletti con la pancia. Fumati la ganja che poi la faccia cancia. Perché non si estingua lingua stringa. Qua resta, qua si lancia l'ego. Perché non si estingua lingua stringa. Perché non si estingua London Arnaid. Perché non si estingua lingua stringa. Qua resta, qua si lancia l'ego. Perché non si estingua lingua stringa. Perché non si estingua London Arnaid. Perché non si estingue?